Grazie, buonasera a tutti. Sono Tano Urzì, vengo da Catania, sono presidente della cooperativa del Golfo, che è una cooperativa di pescatori e familiari di pescatori, diciamo i più giovani, che hanno sempre lavorato nell'attività di pesca all'interno principalmente del Golfo di Catania. In generale un po' in tutta la Sicilia sud-orientale. La nostra cooperativa nasce nei primi anni 90 con l'obiettivo principale di sviluppare un'attività di prevalentemente di trasformazione dei prodotti della pesca della nostra zona. E nel corso degli anni abbiamo lavorato sia a con le nostre barche, quindi con l'attività principale della pesca, e abbiamo sviluppato anche una progettualità di impianti per esempio abbiamo fatto un progetto a Villa Franca Tirrena di una cooperativa di ex operai della Pirelli che erano in mobilità e si sono riconvertiti sviluppando un'attività di acquacoltura e di trasformazione. Anche se al momento è stata avviata solo l'attività di acquacoltura, quella di trasformazione ancora non è decollata. Abbiamo fatto formazione professionale, ma soprattutto abbiamo sviluppato due progetti che sono un po' come dire i progetti della vita, no? Quelli in cui si è creduti, o meglio, fin da piccoli si è un po' assimilato quello che è. Quelli che sono un po' i saperi, il modo di vivere, la cultura di una parte dei pescatori, e ora poi vi dirò cosa significa di una parte dei pescatori. E poi naturalmente nel corso degli anni abbiamo cercato di andare oltre alla sola attività di pesca, alla sola esperienza diretta dell'attività di pesca per innescare invece un processo di, chiamiamolo sviluppo, ma di uno sviluppo che vede il mare e le risorse come delle cose con le quali dialogare, con le quali confrontarsi per far sì che il mare stesso, come dire, continui. Cioè i nostri padri, i nostri nonni ci hanno lasciato una grande risorsa, oltre che una grande esperienza, sta a noi adesso tutelarla per possibilmente trasmetterla ai nostri figli, ai nostri nipoti. Dicevo prima, una parte dei pescatori. Perché una parte dei pescatori? Perché dopo la guerra, sostanzialmente, nei primi anni 50, il modello di sviluppo della pesca, ma in generale tanti modelli di sviluppo dell'agricoltura e di altri settori, hanno subito un cambiamento epocale, rivoluzionario. Cioè, la rivoluzione industriale è iniziata nell'Ottocento in Inghilterra, negli altri paesi, da noi a cavallo dell'Ottocento col Novecento. Nella pesca la rivoluzione industriale si avviò nel dopoguerra. Perché? Perché con l'avvento del motore diesel, praticamente i pescatori passarono dall'attività removelica all'attività motorizzata. Quindi negli anni 60 e soprattutto negli anni 70 molti pescatori costruiscono barche più grandi, anche in virtù poi delle sovvenzioni che venivano dall'Unione Europea, dallo Stato, e quindi questi grossi pescherecci ampliarono un po' gli orizzonti, no? del pescatore, per cui si iniziò a pescare il pesce spada lontano dalla costa, mestieri quali quello delle lampare, della piccola pesca azzurra lungo la costa, diciamo anche loro con pescherecci più grandi andarono in zone più lontane e quindi si innescò un meccanismo di, se vogliamo, depauperamento continuo ma leggero, no? delle risorse. Anche se poi su questo una parte importante per esempio c'è l'inquinamento costiero che anche negli ultimi anni cambiamenti climatici che iniziano a vedersi anche nelle risorse ittiche, per esempio, o nei modi come le risorse ittiche, diciamo, a volte si presentano nella stagionalità biologica del pesce. Quindi, diciamo, si rompe un po' questo modello di sviluppo. E i pescatori in qualche modo si dividono da una pesca medio-grande a una pesca, a una piccola pesca costiera, che è la pesca dei nostri nonni, dei nostri padri, cioè quella in cui il pescatore è legato a un territorio ben preciso, in cui il pescatore, cioè l'orizzonte del pescatore, è un orizzonte visivo, cioè lui non si allontana mai dalla costa, cioè la costa la deve vedere per lavorare, la deve vedere e, vedendo la costa, come dire, mette in atto quello che è il suo atlante culturale, atlante mentale, no? Perché parlo di atlante? Perché questo piccolo pescatore legato al suo territorio costiero, nel corso dei secoli, se vogliamo, attraverso principalmente la trasmissione orale dell'esperienza, dei saperi, ha prodotto un atlante mentale che è poi quello che lui costruisce, cioè attraverso questo modo di conoscere i punti della costa, conoscere tutto il fondale marino senza bisogno dell'ecoscandaglio, cioè in sostanza è una sorta di ci si costruisce un catasto del mare, no? Nella sua mente, e quindi attraverso questo patrimonio di esperienze in cui entrano in gioco tutta la morfologia della costa, che rispetto a come si vede, che so, l'Etna con un tal punto della costa, come si allineano, no? Nella visione, e per esempio lui conosce metro per metro il fondale marino, se lì c'è fango, se lì c'è un relitto, se lì ci sono gli scogli, e quindi tutte queste esperienze legate poi anche ad altri fattori, come dire, meteo marine, se vogliamo, cioè le stelle, per esempio, il sole quando albeggia, quando tramonta, le notti di luna, sono tutti elementi che gli servono per sviluppare alcuni mestieri di pesca, in cui anche oggi, per esempio, l'attività che noi facciamo con la pesca delle alici, no? Usiamo una piccola rete che si chiama Menaide, e questo è il secondo progetto di cui, insomma, ora vi parlerò. Quindi in questo mestiere la luna, le stelle, l'alba, eccetera, le correnti, la profondità, il vento, hanno tutti, come dire, un riferimento poi nel fatto che si possa pescare, si prende più pesce, meno pesce, e non c'è bisogno di avere né ecoscandagli, né sonar, né niente. Sta tutto nella mente di questi piccoli pescatori, chiamati così perché nel concetto di piccola pesca, la pesca costiera locale. Poi sono dei grandi uomini invece, non sono assolutamente piccoli. E quindi noi abbiamo oggi questo grande patrimonio umano, antropologico, sociale, economico, che stiamo rischiando via via di perderlo, e stiamo rischiando via via di perdere anche questi saperi, queste tradizioni, perché il restante raggruppamento dei pescatori è abituato a pescare in maniera meccanica, con la strumentazione chiamata moderna, che sì, è moderna, però come dire, a volte troppo moderna, se vogliamo. Li disabitua un po' a questo tipo di approccio, che è un approccio millenario. E rischiamo di perdere questo patrimonio, che è il patrimonio un po' di tutta la nostra costa italiana. Non è, cioè, se voi pensate che ad ogni porto, per esempio, e questo è riferito alla gastronomia ittica, no? Ad ogni porto c'è almeno un pesce o più che sono tipiche di quelle tradizioni alimentari di quel posto. Quindi capite bene come il concetto della biodiversità, non solo naturalistica, ambientale, ma anche sociale, rispetto alla tutela del piccolo pescatore è una cosa estremamente importante per salvaguardare questo patrimonio di comunità umane, di comunità costiere. Noi, dicevo prima, abbiamo sviluppato questo progetto della pesca degli alici, la pesca delle menaide, con la menaide, che è una piccola pesca, è una piccola rete di circa 300 metri, è una rete derivante che è, diciamo, pelagica, quindi sta abbastanza, diciamo, in superficie, però ci sono momenti del giorno in cui si cala anche radente il fondale marino. E questa pesca era una pesca di cui ci sono tracce anche a tempo dei fenici, quindi è una pesca millenaria, una pesca che facevano in tutto il Mediterraneo. Ormai si è praticamente rimasta come attività economica di una certa validità solo nel Golfo di Catania. E si fa con 5 piccole barchette anche nel Golfo di vicino Pestum, non mi ricordo la località, Cetara, comunque non, da quelle parti lì. Ed è una pesca estremamente, è una rete estremamente ecosostenibile, perché ti pesca solo una sola specie di pesce, che è l'alice, con una maglia leggermente più piccola. Con una maglia leggermente più grande si pescano pure le sardine, le sarde. Noi cosa abbiamo fatto? E questo è un mestiere che io, tra i 2 o 3 mestieri che nei miei circa 30 anni di attività di pesca ho fatto, è quella che a me piace di più ed è quella che dà, come dire, le sensazioni di vita di mare più intrinseche, più belle, perché è una pesca che si fa sia d'estate che d'inverno, sia con la luna di notte o anche la mattina di giorno. Quando ero piccolino si faceva dall'alba al tramonto pure. Ora poi sono cambiati un po' anche gli orari dei mercati, e quindi adesso si fa la mattina, e poi qualche volta nei mesi primaverili e estivi anche di notte, principalmente quando c'è la luna piena. E quindi stavo dicendo, questo mestiere, per me il più bello, il più appassionante, si stava ormai, era, come dire, è un relitto, diciamo, degli antichi mestieri, localizzato solo a Catania, nel Golfo di Catania. Allora cosa abbiamo fatto? Nel 2003, assieme a Slow Food, abbiamo ragionato in maniera molto semplice. Ho detto, c'è una comunità di pesca che ancora oggi vive di questa attività. La mia barca fa ancora questa attività. Credo che rispetto al patrimonio che questo mestiere ancora oggi produce, trasmette, patrimonio intendo patrimonio di saperi, soprattutto, è un peccato farlo morire. Allora cosa facciamo? Cerchiamo di valorizzare il prodotto che viene fuori da questo mestiere, per valorizzare soprattutto e far conoscere soprattutto il mestiere. Quindi far sì che quella comunità di pescatori, quelle 150 famiglie che ancora oggi vivono prevalentemente di questo mestiere, possano continuare a farlo nei prossimi anni e possibilmente decenni. E quindi troviamo proprio un modo per porre all'attenzione, sia dal punto di vista, appunto, di trasmissione di sapere, ma sia anche dal punto di vista economico. E abbiamo sviluppato il presidio Slow Food della Mascolina da Maglia. Mascolina da Maglia è il nome che dialettalmente si dà all'alice pescata con questa piccola rete lì a Catania. E io ho proprio voluto denominare il presidio Mascolina da Maglia. Devo dire che con i vari saloni del gusto, con Slow Fish, abbiamo avuto un riscontro estremamente interessante, e ci ha portato ormai diciamo, nel mondo della biosostenibilità, nel mondo, diciamo, delle comunità del cibo, eccetera. La Mascolina da Maglia è conosciuta non solo in Italia ma anche fuori, e questo ci dà una forza oggettiva, perché poi si possono sviluppare dei progetti a vario modo, soprattutto diamo la possibilità a questo prodotto di uscire fuori dai confini domestici, dove la mascolina, l'alice a Catania è il pesce per antonomasia, no? Quindi non aveva bisogno in fondo di essere valorizzato, perché lì in città e nei dintorni questo pesce è apprezzato e c'ha una sua, anche un suo discreto prezzo. Però per salvaguardare il mestiere tu devi andare fuori i confini perché se non salvaguardi il mestiere non salvaguardi nemmeno la risorsa. Deve uscire fuori dai confini domestici e quindi deve mettere al centro di uno dei sistemi più ecosostenibili che oggi ci sono nel panorama della nostra pesca, questo mestiere. E questo è un po' il primo progetto, che è quello a mio avviso più importante per certi aspetti, perché ha questi risvolti anche di proprio legati a questo mondo. Cioè tu quando vai in barca ed esci la mattina, anche come facendo attività di pescaturismo, a volte ci portiamo delle persone che ci chiedono di venire a pescare, eccetera, tu lì capisci e scopri quella che è la vita, il mondo, il vento, l'acqua che ti sbatte in faccia, il freddo di febbraio, che da notare che questo pesce resta impigliato nella rete, no? E viene tolto uno per uno, cioè tu tiri la rete e lo togli uno per uno, quindi le mani d'inverno ti restano proprio agghiacciate, ti restano e sono tutte sensazioni che sono belle, vi assicuro. Anche se poi in certi momenti col mare c'è sempre il pescatore, c'è sempre un rapporto di odio e amore, no? In certi momenti magari odia quel lavoro, ma un minuto dopo magari poi non riesce a staccarsi nemmeno di un metro da quell'ambiente. Questo è forse un po' con tutti i lavori con i quali uno, diciamo, ci crede, li fa con passione. E quindi dicevo, questo mestiere è un po' la punta dell'iceberg della piccola pesca. La piccola pesca cos'è? Dicevo, è quell'attività che si svolge nell'ambito visivo del pescatore, quindi nell'ambito di 2 miglia, 3 miglia, dove il pescatore guarda la costa che gli serve poi per gestire la sua attività, per calare le reti, per tirarle. Ci sono determinate correnti che in certi momenti ti possono aiutare, ma in certi momenti ti possono anche portare a rischiare di perdere le reti. Quindi tutti questi aspetti rimangono sempre in quell'ambito territoriale che è il territorio del piccolo pescatore. Ci sono poi altri mestieri, c'è il mestiere del tremaglio, il mestiere del palangaro, eccetera. Tutti questi mestieri che fanno parte del sistema della piccola pesca sono tutti mestieri altamente sostenibili. Perché? Perché impattano su pochissime specie, impattano su specie prevalentemente già adulte, quindi specie che hanno già fatto il loro ciclo, come dire, biologico, vitale, e quindi non vai a colpire i piccoli rompendo un po' quello che è il ciclo biologico. E dobbiamo puntare su questa pesca. Cioè ormai le tonnare, le spadare, che sono quelle più che in questi anni sono state più in vista dal punto di vista dell'opinione pubblica, della scandalistica giornalistica, eccetera. E a noi stanno vivendo, ormai hanno vissuto, come dire, la loro vita, ma anche qui si è prodotto cioè tutto quello che raccontano i giornali, tutto quello che dice la televisione spesso non è la verità, perché qui si sono innescate tutta una serie di aspetti legati a delle lobby internazionali molto forti, lobby economiche, ma anche lobby politiche e anche lobby ambientali, purtroppo. Qualche associazione ambientalista ha avuto anche un ruolo, a mio avviso, poco trasparente, o forse possiamo mettere quel dubbio, anche poco, se vogliamo, lungimirante o poco approfondito. Però hanno giocato un ruolo deleterio per queste comunità di pescatori. perché il problema della Spadara è un problema che si poteva risolvere naturalmente mettendo le persone nella legalità, non nell'illegalità. Così come questo del tonno rosso è in parte un falso problema, perché la risorsa ancora c'è, semmai si trovano degli accorgimenti, però sapete perché probabilmente, per esempio, si sta cercando di inserire il tonno rosso nella lista delle specie CITES, che sarebbero le specie in via di estinzione, quindi si blocca la vendita del pesce fuori, nel caso nostro, dei confini europei, quindi i mercati che in questi anni hanno intercettato questi prodotti. Perché probabilmente gli spagnoli e i giapponesi hanno i frigoriferi pieni per almeno 10 anni di prodotto. E quindi queste grandi lobby economiche stanno imbastendo tutto questo meccanismo proprio a danno di una flotta principalmente italiana, francese e spagnola, che rischia, ormai sono di fatto state costrette alla dismissione tra qualche anno. E purtroppo sono famiglie che perdono il posto di lavoro, famiglie localizzate nel Mezzogiorno e di cui è difficile trovare anche un'alternativa. L'alternativa qual è? L'alternativa, a mio avviso, è quella di ritornare un po' alla piccola pesca, allo spirito della piccola pesca. Perché bisogna ritornare alla piccola pesca? E passo al secondo nostro progetto.